L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla festa delle oasi del WWF, che è un appuntamento annuale per conoscere non solo le aree protette dal WWF, ma anche per proteggere attivamente le aree del mondo più delicate. Domenica 24 maggio, quindi domenica della settimana prossima, il centinaio di oasi italiane del WWF saranno aperte gratuitamente al pubblico. Di queste, una quarantina sono quelle che tutelano aree boschive e circa la metà sono costituite esclusivamente da foreste. Perché vi ho fatto tutte queste specifiche? Perché quest'anno la missione speciale legata alla festa delle oasi è quella di raccogliere fondi per la tutela del parco di Zhangashanga nel bacino del Congo. Dal 10 al 24 maggio sarà quindi possibile contribuire alla tutela di questa area con un SMS, ma lo si potrà fare ovviamente anche nel corso della visita all'oasi WWF più vicina a voi il 24 maggio stesso. Ci spiega di più di questa iniziativa il direttore scientifico WWF Gianfranco Bologna. Guardi, noi ogni anno facciamo questa giornata perché rendiamo non solo aperti a tutti il nostro sistema di oasi naturali, che sono e caratterizzano una serie di ambienti naturali di grande valore per il territorio italiano e che hanno anche numerose strutture ricettive per il pubblico e hanno una grande attività di educazione e di ricerca scientifica. Quindi la conoscenza di tutte queste aree che dà il segno e la consapevolezza di quanto sia importante la conservazione ambientale dal punto di vista dell'elemento che oserei dire sia forse il più significativo e il più importante, cioè renderci tutti conto che il capitale naturale, cioè la grande ricchezza di biodiversità, la grande ricchezza di vita sul nostro pianeta, che nelle nostre oasi rappresenta anche un po', diciamo, la qualità di questa biodiversità in giro per il nostro paese, costituisce la base del nostro sviluppo, del nostro benessere. E come facciamo da qualche anno, colleghiamo la nostra campagna dedicata a questi gioielli italiani, che sono appunto le aree protette che l'associazione ha come progetto storico dell'associazione. Credo che il WWF molti lo conoscano proprio perché si ricordano bene che dalla sua fondazione nel 1966, parlo del WWF italiano, ha avuto questa forte caratterizzazione nel tutelare immediatamente e concretamente delle aree naturali di grande valore, si collega alle grandi dimensioni internazionali dove il WWF agisce in maniera operativa sul campo, quindi non semplicemente cercando di partecipare a convegni che declamano la grande importanza di conservare l'ambiente, quando poi purtroppo spesso queste cose restano soltanto sulla carta e non nella pratica. E in particolare quest'anno colleghiamo la grande iniziativa delle oasi a un grande progetto nel bacino del Congo. Il WWF ha una grande iniziativa globale, quella che noi chiamiamo le Global Initiatives, dedicata proprio alla salvaguardia di questo straordinario ambiente che è particolarmente minacciato perché è oggetto anche di meccanismi di sfruttamento e depredazione che oramai contestualizzano un sistema molto complesso che ha a che fare anche con non solo con l'illegalità, ma persino con il terrorismo. È perché ormai sì, purtroppo direi che si vede sempre più evidentemente che certe aree di crisi sono poi, no, collegate anche a, non so, situazioni di fame, siccità, problemi che sono legati all'ambiente, al territorio. Certamente, pensi che noi ovviamente in Africa, soprattutto nell'area del bacino del Congo, che è un'area che racchiude la seconda più grande foresta tropicale del mondo, che è quella appunto dell'Africa centrale, dopo l'Amazzonia, dopo appunto quel grande ambiente naturale che non a caso è stato oggetto della giornata delle oasi e del gemellaggio tra virgolette delle nostre attività in Amazzonia e delle nostre attività in Italia e l'anno scorso, mentre quest'anno, come le dicevo, lo facciamo particolarmente dedicato alla situazione africana. Perdono qualcosa come 700.000 ettari ogni anno e purtroppo ci sono situazioni drammatiche in cui il commercio illegale di legname, noi abbiamo una grande campagna planetaria sulla cosiddetta Zero Net Deforestation Degradation entro il 2020, cioè riuscire a ottenere il blocco della deforestazione a livello planetario e della degradazione degli ambienti forestali entro il 2020, che peraltro è anche un obiettivo che si è dato l'intera comunità internazionale nell'ambito della Convenzione sulla biodiversità, quindi sulla ricchezza della vita sulla Terra, e anche l'Unione Europea nella sua strategia europea per quanto riguarda la biodiversità, che deve raggiungere entro il 2020, quindi non è che stiamo, come dire, elaborando, indicando degli obiettivi che sono strettamente legati al nostro desiderato. Ebbene, in queste aree c'è una situazione pesantissima per quanto riguarda la deforestazione, l'uso illegale del legname, l'uso illegale della cosiddetta bushmeat, quindi la carne dovuta a animali di foresta. Quest'anno abbiamo avuto delle situazioni drammatiche, tanto che oggi siamo in grado di poter dire che degli elefanti di foresta in meno di 60 anni nel solo nella Repubblica Democratica del Congo siamo passati da 200.000 esemplari a meno di 20.000. Siamo di fronte a una devastazione, ovviamente, come sappiamo, per l'uso soprattutto dell'avorio e per il commercio illegale che c'è dietro. Noi abbiamo fatto delle valutazioni insieme al Programma Ambiente delle Nazioni Unite, che fa presente come l'intera deforestazione a livello planetario ha un mercato illegale che si muove dai 30 ai 100 miliardi di dollari annui, quindi una cifra veramente spaventosa, che a sua volta poi viene investita in tutta un'altra serie di attività che spesso incrociano tutta la drammaticità della situazione debolissima di tanti paesi che si trovano in queste aree. E di tante persone, certo. E di tantissime persone che soffrono. Infatti la grande attenzione che noi abbiamo è proprio su questo, cioè la sfida della sostenibilità è riuscire a governare i cosiddetti sistemi socio-ecologici, cioè tenere insieme la dimensione umana con la dimensione ambientale. E quindi chiediamo a tutti di aderire con un SMS o chiamando delle rete fisse al 45503 per dare un contributo concreto a tutto questo grande programma internazionale. Senta, questo contributo, appunto, poi come lo gestirete? Con chi? Con i governi dei paesi? Come viene poi dopo portato questo aiuto? Ecco. Certo, noi per quanto riguarda tutta l'area che non a caso si chiama Zhangashanga Complex of Protected Areas, perché mette insieme una serie di aree che sono tra la Repubblica del Congo, la Repubblica Centroafricana e il Camerun, quindi siamo proprio al confine di queste tre grandi aree, di cui nella Repubblica Centroafricana in particolare c'è il parco di Zhangashanga. Noi stiamo lavorando moltissimo con le comunità locali e tutto il lavoro che stiamo facendo va nella direzione del blocco al bracconaggio, del fare in modo che ci sia un'attività economica locale che tenga conto con grandissima attenzione di quella che è la tradizione locale e di quella che è la cultura locale. Oggi sempre più si è tutti consapevoli di quanto quella che viene definita traditional knowledge, quindi la conoscenza tradizionale, ha un'importanza certe volte superiore alla scientific knowledge, alla conoscenza scientifica, che spesso viene fatta un po' distante, diciamo, dai luoghi in cui invece una conoscenza tradizionale ha operato per millenni. E quindi l'incrocio anche di una sana conoscenza scientifica con la conoscenza tradizionale ci aiuta a poter intervenire nel miglior modo possibile, che oggi credo si possa tratteggiare per fare interventi di conservazione della natura sul campo. E in questa maniera credo che sia la soluzione che noi peraltro stiamo applicando oramai in tantissime realtà planetarie. Noi interveniamo in 100 paesi al mondo e soprattutto in tutte queste aree dove c'è una grande ricchezza di biodiversità e dove purtroppo ci sono delle situazioni molto gravi di depredazione, di sfruttamento abusivo, di illegalità, di corruzione. E tutto questo ci porta anche spesso a lavorare con strutture internazionali come Interpol, perché purtroppo questa situazione ha molto a che fare oramai con tutte, come dire, ci muoviamo in un mondo globalizzato, esatto. Ci muoviamo in una situazione molto complessa, dove è chiaro che i rischi sono tanti, ma ovviamente vanno assolutamente affrontati e vanno anche risolti. Ed era il direttore scientifico del WWF, Gianfranco Bologna. Vi ricordo la visita gratuita e libera alle oasi del WWF di tutta Italia la prossima settimana, il 24 maggio. Chi vorrà potrà poi contribuire in un'altra sede, anche in un altro momento, alla protezione del parco di Zhangashanga di cui abbiamo appena parlato. Ci ritroviamo tra poco per parlare ancora di foreste, almeno in un certo senso. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Abbiamo parlato prima di oasi del WWF, di protezione delle foreste. Restiamo idealmente legati quindi a questo tema, quello della foresta e dei boschi, e concretamente collegati al WWF, perché ora parleremo della collaborazione tra questa associazione e il gruppo Sofidel, che è uno dei leader mondiali della produzione della carta per uso igienico e domestico, ed ecco qui il collegamento con le foreste. È un gruppo che ha ridotto considerevolmente le sue emissioni nei processi produttivi del trasporto e del confezionamento, aderendo al programma WWF che si chiama Climate Savers, che propone alle aziende piani per la riduzione delle emissioni di gas serra. Giusto per contestualizzare, abbiamo detto che Sofidel è un leader mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico. Bene, in Italia ad esempio conosciamo bene il marchio Regina, ad esempio, ma poi ce ne sono tanti altri di marchi che raggiungono l'Europa, il Mediterraneo e anche l'America. Riccardo Balducci è Corporate Environmental Manager di Sofidel, insomma segue esattamente questo settore della sostenibilità della sua azienda, e ci racconta il percorso che ha fatto Sofidel e i risultati che ha ottenuto nel corso degli anni, perché la collaborazione è nata nel 2008. Dunque, Sofidel è un gruppo internazionale, italiano, ma con sedi in tutta Europa, oggi anche negli Stati Uniti. Cercavamo qualcosa che insomma si confacesse alla dimensione del gruppo. L'idea di avere un accordo internazionale sul tema del clima ci è sembrato subito molto bello, perché coniugava un aspetto a noi importante, perché il settore cartario è un settore che provoca degli impatti dal punto di vista del clima, con una dimensione dell'accordo che fosse internazionale, quindi visibile a tutti i nostri clienti, non solo italiani ma di tutta Europa. E la cosa ci ha convinto, ci è sembrato molto sfidante, anche perché i soggetti che già vi partecipavano erano per l'appunto aziende molto importanti, internazionali a loro volta, e quindi abbiamo visto nell'opportunità anche un'occasione di crescita oltre che di promozione dell'azienda. Vi hanno convinto insomma un po' tutti questi fattori, diciamo, a intraprendere un percorso che comunque di per sé è anche un percorso oneroso sotto tanti profili, non solo economico. Sì, dunque il programma prevede di stipulare obiettivi che siano pubblicabili, pubblici, obiettivi sfidanti, quindi non obiettivi sulla carta facilmente raggiungibili, non sarebbe nello spirito, diciamo, no, di una collaborazione con una stazione ambientalista. Quindi l'onere sta per l'appunto nel trovare dentro di sé, in casa propria, la possibilità, anche guardando molto lontano, di raggiungere obiettivi molto, molto sfidanti, quasi inaccettabili all'epoca, da un lato. Dall'altro, questo lavoro di programmazione poi deve essere messo nel concreto, e il lavoro molto, molto importante è stato quello di coinvolgere i principali attori in azienda nel credere che questo fosse qualcosa di raggiungibile, e internamente ha implicato notevoli cambiamenti anche organizzativi oltre che di investimento. Quindi sicuramente un'attività a 360 gradi per noi. Senta, lei mi ha detto obiettivi quasi inaccettabili. Quali erano questi obiettivi? Guardi, all'epoca l'UVS internazionale, dopo un'analisi, devo dire, molto approfondita, UWEST lavora così, affida a un loro consulente, quindi esperto in materia, l'onere di analizzare il candidato. Non era, diciamo, all'epoca, come le posso dire, scontato che il software potesse accedere a questa collaborazione. Quindi dopo una prima fase di screening il software è stata accettata in questa attività e lo stesso soggetto, l'esperto nel settore, ha verificato i margini che Sofis aveva di miglioramento. L'obiettivo che ne è scaturito è stato un obiettivo di riduzione delle emissioni complessive del gruppo dell'epoca del 26% in 12 anni. Ma tagliare del 26%, cioè di un quarto, voleva dire tagliare di un quarto i consumi energetici, che per un settore energivoro come il nostro, insomma, era abbastanza fantascientifico, insomma, vuol dire, no? Molto avveniristico. In tutto questo c'era un obiettivo intermedio, una sorta di obiettivo spia di metà percorso, per verificare che appunto il percorso fosse ben estradato. Era un obiettivo dell'11% alla fine del 2012, dopo 5 anni. Questo obiettivo è stato raggiunto. E questo vi ha fatto ben sperare quindi sull'obiettivo finale a quel punto? Ci ha fatto ben sperare, chi ha scommesso su questo progetto, insomma, se ne è rallegrato, e tutti gli altri, magari anche più scettici, ma che in ogni caso hanno dato la loro disponibilità e vi hanno lavorato, si sono dovuti ricredere e prendere atto che quando si crede in una cosa molto fortemente si può raggiungere. Questo è stato un bellissimo risultato anche di entusiasmo, voglio dire, no? Oltre che di tangibile riduzione delle emissioni. Quindi l'impegno ha riguardato principalmente l'aspetto energetico della vostra produzione, tagliare sui consumi energetici? Tagliare i consumi energetici oppure produrre l'energia con sistemi più efficienti. Noi una buona quota della nostra energia viene elettrica, viene autoprodotta con sistemi anche evoluti, quindi turbine, motori, no? Cogenerazione, con una sola parola, e facendo ricorso a un approvvigionamento per esempio con risorse rinnovabili. Sono queste tre le ricette principali, quindi maggiore efficienza, uso a tecnologie più importanti come la cogenerazione, ricorso a fonti rinnovabili quando è possibile. Mi ha detto in 12 anni, 2008, 2018, 2020, quindi stiamo parlando del 2020 per l'obiettivo finale del taglio del 26%. Questo per quel che riguarda il settore energetico. Contemporaneamente Sofidel, e questo ci ricollega al tema delle oasi del WWF, si è occupata anche dell'approvvigionamento delle risorse forestali, perché parliamo di carta, e quindi dell'attenzione che deve mettere anche a questo aspetto. Come l'avete portata avanti questo discorso? Dunque, questa questione parte da molto prima. WWF però naturalmente ha voluto verificare in maniera molto attenta che Sofidel avesse le credenziali giuste per diventare un partner del WWF stesso. Un soggetto come noi che si approvvigiona di beni forestali non poteva non avere un alto profilo da questo punto di vista. Il profilo poi con loro, e dalla collaborazione che abbiamo avuto con WWF, è ulteriormente aumentato. E quindi facendo cosa? L'azienda si è posta anche qui un obiettivo che non gli ha raggiunto, cioè quello di approvvigionarsi di risorse derivate della foresta. La polpa di cellulosa sostanzialmente deriva da beni forestali. Questo materiale oggi è acquistato al 99%, quindi ogni anno c'è una piccola percentuale magari che può cambiare, ma siamo tra il 99,5% e il 99,8%, quindi possiamo anche dire il 100%, di materie prime forestali certificate con gli standard forestali più importanti e accettati dal WWF. Questo ci pone su un livello di, insomma, affidabilità per loro, per WWF, ma anche per il consumatore. Insomma. Voi riuscite a comunicarlo al consumatore, questo aspetto del vostro lavoro? Sì, il tema della comunicazione è cruciale, molto dibattuto, molto complesso. Tant'è vero che Sofidel ha fatto un grandissimo sforzo con il suo ufficio di comunicazione istituzionale per far crescere l'immagine dell'azienda e ci siamo riusciti. Oggi Sofidel è un soggetto conosciuto e per i suoi prodotti, ma anche per il suo impegno a favore dell'ambiente e del clima. Quindi secondo me l'obiettivo è raggiunto anche in questo caso. Molto più difficile trasportare questi impegni sui prodotti, quindi al soggetto consumatore. È più difficile perché vigono le regole nel commercio più stringenti. Però posso dire che questi marchi, queste certificazioni forestali hanno anche dei marchi commerciali che possono essere messi sul prodotto. Una larga parte dei nostri prodotti oggi è certificato con questi marchi, si chiamano di catena di custodia forestale. Quindi tutto sommato il consumatore può anche avere un segnale di distinzione di Sofidel nei prodotti. Vi pare che il consumatore negli anni stia acquisendo quella attenzione necessaria anche a poter cogliere il messaggio di questi marchi? Non in tutti i paesi. È difficile sapere se sia il consumatore a guidare la partita, i grandi gruppi di distribuzione. Una cosa che le posso dire è che ci sono paesi europei molto sensibili e quindi che hanno richieste di mercato molto importante da questo punto di vista, e quindi quel mercato è diventato, non so, penso a quello inglese, totalmente, cioè deve essere alimentato con prodotti completamente certificati, non c'è alternative. Ci sono prodotti come quelli italiani dove questo aspetto è molto molto meno importante. Quindi è un mix di richieste di commerciale dei grossi distributori, forse unitamente a una sensibilità del consumatore più o meno spiccata. Quindi c'è un'Europa molto variegata, ecco, da questo punto di vista. Sì, assolutamente, a 2 o 3 velocità, questo lo possiamo dire. La terza più bassa velocità dove la riscontrate? Ma nei paesi dell'est Europa. Dell'est dove, ancora. Sì, dove ancora alcuni consumatori non conoscono neanche il WWF, ecco, cioè, che in questo caso proporre una software che ha la partnership con WWF diventa quasi un benefit per il WWF, cioè quasi il nostro prodotto che presenta il WWF, non il viceversa. Le volevo chiedere in conclusione, vedo che voi siete l'unica azienda del vostro settore a aver intrapreso questo percorso, diciamo in generale che quindi è possibile intervenire anche in un settore come il vostro. Dunque, sì, ti confermo che attualmente nel settore carta tissue nessun altro operatore si è inserito nel programma Climate Save. E siamo anche l'unica azienda in Italia, tutto sommato, in generale, trasversale a tutti i settori. Si può fare qualche cosa anche in un settore considerato tradizionale, ci sono i mezzi, ci sono le tecnologie. Le posso dire che chi fornisce impianti e macchinari ci sta puntando molto alla questione di efficienza energetica, e seguendo un trend che ormai è tracciato, vuol dire non bisogna cercare chissà quali innovazioni. Rapidamente, per il futuro cosa vede? Proprio recentemente abbiamo rinnovato l'impegno includendo tutte le attività del gruppo che nel frattempo si sono moltiplicate, no? Dentro il progetto, dentro l'accordo. Proprio alla fine del 2014, inizio del 2015 abbiamo concordato con WWF di includere tutte le attività dentro il Climate Save, e i nuovi obiettivi quindi includono tutti quanti. Questo credo sia un passaggio importante per noi. Grazie a Riccardo Balducci, Corporate Environmental Manager di Sofidel. Ci fermiamo qui. Per scriverci l'altro pianeta @radio24.it, da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.